Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata particolare oggi che terminerà alle 18, avremo di nuovo infatti dalle 18 alle 18.30 uno speciale, ahimè, dedicato ai due, tre attentati, in realtà soprattutto a quello di Lione e di Hammamet, per cui per dare gli aggiornamenti anche a tutti gli italiani che sono in viaggio, come già abbiamo fatto dalle 15.30 alle 16.30 nella giornata, per quello che riguarda il programma Focus Economia, in cui, come molti di voi sanno, oggi insomma, è l'appuntamento poco invidiabile della poco invidiabile classifica di Focus Economia sui 5 sprechi della settimana. Oggi in realtà ne avevamo trovati così tanti che alcuni di questi non riusciremo a citarli tutti, li rimandiamo alla prossima settimana. Speriamo di non accumulare troppo arretrato, vorremmo non avere proprio arretrato e possibilmente non avere neanche questa rubrica come sogno nel cuore. Per quello che riguarda il resto della giornata economico-finanziaria, il nuovo Eurogruppo, come già anticipato, viene confermata la convocazione per domani alle 17. Da quello che si è capito attraverso fonti europee, vi sarebbe una offerta da parte dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale di una nuova proroga alla Grecia, 5 mesi di aiuti fino a novembre, varrebbero 15 miliardi e mezzo di euro, sostanzialmente arriverebbero 8 miliardi e 700 milioni dall'Europa, 3 miliardi e 300 milioni dalla BCE e 3 miliardi e mezzo dal Fondo Monetario Internazionale. E Angela Merkel, questa volta devo dire obiettivamente poco criticabile, dice, e ha ragione nel dire, insomma, la Grecia accetti un'offerta straordinariamente generosa, quella della proroga di 15 miliardi e mezzo per 5 mesi di aiuti. Beh, ascoltiamo anche questo passaggio di Angela Merkel. Noi vogliamo, e penso di poter parlare a nome di tutti i partner europei, che si arrivi ad una soluzione sulla Grecia. La strategia si basa sempre sullo stesso principio, già adottato con altri paesi in difficoltà. Da un lato solidarietà, dall'altro uno sforzo da parte del governo greco. Siamo tutti dell'opinione che l'offerta fatta sia generosa. Ora possiamo soltanto sperare che da parte del governo greco ci sia la volontà di far sì che domani si possa davvero arrivare a questa soluzione. Morgen alle die an den Gesprächen teilnehmen eine solche Lösung anstreben. Allora, nel frattempo Tsipras ha risposto a muso duro, in questo caso deve stare, non capiamo nemmeno delle volte la tecnica negoziale, la tattica negoziale di Tsipras, non accetto ricatti e ultimatum. Beh, insomma, qualcosa conviene che accetti, caro Tsipras, perché insomma non è nelle condizioni la Grecia di imporre le sue decisioni e basta. E non capisco, insomma, se questo sia, faccia più parte di un'attività di politica interna per mantenere unito il partito Syriza, ma obiettivamente sembra un po' farla fuori dal vaso oggi Tsipras. Ancora il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto di essere abbastanza ottimista, ma non totalmente ottimista. Un po' più ottimista anche il falco tedesco, Ministro delle Finanze Schäuble, ha detto che la possibilità di un accordo sono attorno al 50%. E poi è intervenuto sul tema anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi in conferenza stampa a Bruxelles, ha detto le trattative per il salvataggio della Grecia sono all'ultimo miglio, le condizioni per chiudere ci sono, un'eventuale uscita di Atene dall'euro sarebbe una sconfitta per l'Europa. se esce la Grecia è una sconfitta per l'Europa. Naturalmente, perché si arrivi a bloccare la Grexit, c'è la necessità da parte del governo greco di dare un concreto orizzonte di interventi. I greci sostengono di averlo fatto e di aver fatto dei passi in avanti. In parte delle istituzioni non c'è la stessa opinione, almeno anche nei dettagli. Ormai siamo molto vicini a un punto di accordo. Se mi domandate, tu pensi che domani si possa chiudere l'accordo? Io penso di sì. Spero di sì e credo di sì. Naturalmente occorre che tutti facciano l'ultimo miglio, o forse qualcosa in meno dell'ultimo miglio, e credo che ci siano le condizioni perché ciò accada. Allora, alle 18, visto che ascoltavamo il Presidente del Consiglio Renzi, a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare la delega fiscale, quella che è stata rinviata nell'ultimo Consiglio dei Ministri di martedì scorso, e quindi la riforma della riscossione delle agenzie fiscali, le disposizioni su punibilità e sanzioni di vari reati fiscali. È possibile, ma non certo, che il governo esamini anche un pacchetto di misure per sbloccare i cantieri fermi per intoppi burocratici, quei cantieri che Renzi due giorni fa ha stimato valgano, con lo sblocco di questi cantieri, l'1% del PIL, opere, in realtà un po' di meno, le opere complessivamente valgono 10 miliardi di euro, 5.000 opere nel complesso, sono interventi medio piccoli. Noi continuiamo a ribadire che quelli sono i più importanti per creare ricchezza sul territorio, più delle grandi opere. Interessano soprattutto l'edilizia scolastica, la sicurezza idrogeologica e la riqualificazione urbana. Oggi è salita tra l'altro la fiducia di consumatori e imprese. A giugno la fiducia dei consumatori è risalita a 109 punti e mezzo contro i 106 di maggio. Fiducia dei consumatori, anche quella delle imprese è risalita a 104 punti contro i 101 di maggio, ma soprattutto il Centro Studi Confindustria ha rivisto al rialzo, leggermente però al rialzo, le stime sul PIL italiano quest'anno. Dallo 0,5% previsto si va allo 0,8%, e nel 2016 dall'1,1% si va all'1,4%. È comunque una svolta dopo un triennio di profonda contrazione, perché ricordo che venivamo da 13 trimestri consecutivi di calo del PIL, un calo del PIL accumulato che il Centro Studi Confindustria stima in quasi 5 punti percentuali. E proprio a questo sono dedicati i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Salvatore Padula. Mentre l'attenzione di tutti è rivolta all'imprevedibile esito della trattativa tra la Grecia, i suoi creditori e l'Unione Europea, sul fronte macroeconomico interno arrivano alcuni segnali positivi. Il primo dato riguarda la fiducia dei consumatori e delle imprese, calcolato dall'Istat. In entrambi i casi il mese di maggio aveva fatto segnare un arretramento di questo indice, che invece a giugno torna a salire, a conferma di un maggior ottimismo per lo stato di salute dell'economia del paese. Come ha detto, il miglioramento riguarda le famiglie, dove aumenta il numero di consumatori, il numero di persone che si attende un aumento dei posti di lavoro, quindi migliori notizie sul fronte del mercato del lavoro, sia per le imprese, dove c'è un miglioramento della fiducia in quasi tutti i settori, con un balzo significativo sia per il commercio al dettaglio sia per le costruzioni. Intanto anche il Centro Studi Confindustria ha rivisto all'insù le previsioni sull'economia italiana. La crescita del PIL per quest'anno è indicata allo 0,8%, un dato leggermente superiore alla stima del governo, mentre il prossimo anno il PIL dovrebbe addirittura crescere dell'1,4%. Qualche spiraglio di ottimismo quindi, ma da prendere con cautela, dice Confindustria, che anzi ricorda che la parola ripresa per indicare questo scenario è inappropriata e anche da evitare. Meglio parlare con più realismo di una piccola ripartenza che va però sostenuta e rafforzata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. la classifica della settimana. Oh, la classifica della settimana. Mi ha scritto un ascoltatore: per favore smettetela, mi fa venire il mal di stomaco, la bile. Ho capito, ma qualcuno dovrà pure raccontarle queste cose. Noi in realtà, ripeto, andiamo a cercare cose già pubblicate e che sfuggono delle volte dalle agenzie, dai giornali. Comunque. Allora. Prima di tutto una rettifica, una correzione. Vi ricordate la vicenda della settimana scorsa della pista di atletica di Cecina? La vicenda è uno scandalo in sé, perché la prima inaugurazione è data al 1 luglio 1989 con 550 milioni delle vecchie lire spesi, ma mancavano le nuove righe e non, la pista non è stata utilizzata, poi è caduta in sfacelo e l'hanno dovuta rifare tutta. Avevamo spiegato come per soli 8 centimetri non fosse omologabile per le gare di atletica. Ci ha scritto il responsabile del servizio della NM comunale di Cecina e il responsabile della locale società d'atletica, l'Atletica Costa Etrusca, e ha detto che non è vero, era una notizia sbagliata, c'era un errore in chi l'aveva pubblicata e quindi la pista risulta tranquillamente omologata per le gare dell'atletica leggera. Siamo contenti, e ogni volta che sbagliamo siamo contenti di correggerci. Vediamo al quinto posto invece. Allora, il quinto posto eravamo un po' indecisi, perché sono due situazioni un po' diverse. Una nasce anche in questo caso da un nostro ascoltatore che ci aveva segnalato la settimana scorsa di un'iniziativa un po' particolare della regione Basilicata. L'altra riguardava invece questo vizietto dei rimborsi. Allora, partiamo dai rimborsi, l'abbiamo messa ex aequo con la Basilicata. Ci trasferiamo a Firenze, dove è stata rinviata a giudizio la vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Publiacqua, Caterina Ammendola. Rinviata a giudizio, dunque, Publiacqua è la società che gestisce, è interamente a capitale pubblico, gestisce gli acquedotti delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. La Ammendola è stata consigliere e vicepresidente, è stata presidente anche liquidatore di Publi Utenti, sempre del gruppo Publiacqua, e mentre ricopriva quegli incarichi era anche dirigente della Regione Toscana. Che di che cosa è accusata? Beh, che dal 2008 al 2013, per ben 406 ore, sarebbe risultata presente al lavoro in regione con tanto di badge strisciato, mentre in realtà era impegnata in riunioni del CDA o in missioni per il gruppo Publiacqua. Siccome il dono dell'ubiquità hanno provato vari consiglieri piemontesi, lombardi, dell'ex regione, ex consiglieri, a utilizzare il teletrasporto, ma ancora nessuno l'ha inventato. Il PM Leopoldo De Gregorio contesta anche 25.000 euro di rimborsi spese non dovuti. Si tratta tra l'altro di ricevute per taxi, nonostante in contemporanea venissero forniti anche rimborsi chilometrici. Insomma, o pigli il taxi o sei con la macchina tua. Certo, c'è una terza possibilità, che la tua macchina sia un taxi, ma la vedo dura a quel punto. Pasti con più commensali, insomma, 25.000 euro di contestazione, 460 ore timbrate che non risulterebbero tali, visto che la signora si trovava da un altro luogo. Arriviamo al quarto posto, e mi riferisco alla Basilicata. L'ex equo invece al quinto posto riguarda il comune di Orta di Atella, provincia di Caserta. Allora, i carabinieri hanno notificato 24 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria ad altrettanti dipendenti comunali accusati di truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni. Praticamente, sapete quanti erano? Questi sono i 24 obbligati a presentarsi alla polizia giudiziaria, ma le contestazioni ai dipendenti comunali indagati per truffa aggravata e false attestazioni sono 85 su quanti dipendenti? Su 120. Praticamente 85 su 120, 85 su 120 dipendenti, che non mi sembrano pochi per il comune di Orta d'Atella, viene contestato l'assenteismo. Ma in realtà, appunto, indagati per truffa aggravata e false attestazioni della presenza. Addirittura le indagini, durate svariati mesi, hanno utilizzato anche la telecamera e mostravano, varie telecamere, un grandissimo numero di dipendenti comunali che, pur figurando regolarmente in servizio, erano assenti. Cosa capitava? Si alternavano tra loro e timbravano i cartellini. Addirittura un agente della polizia municipale, ma pensate un po' come sono messi i vigili di Orta d'Atella, quando la presenza delle telecamere era nota, le telecamere per verificare, salutava verso la telecamera in tono irriverente e di sfida, confermando un atteggiamento di impunità e di indifferenza alle regole, recitano i verbali. Questo sapeva di essere ripreso e faceva pure lo sbruffone. Bene, rinvio a giudizio. Nessun funzionario comunale risulta al momento indagato. Tra gli indagati ci sono anche 4 vigili urbani, tra cui l'attuale comandante dei vigili urbani. Beh, insomma, capisci che poi il pesce puzza dalla testa. E alcuni parenti del neo eletto sindaco Giuseppe Mozzillo. Caro Mozzillo, è vero che non risponde per i parenti, oddio, c'è un ex ministro che ha risposto politicamente, però insomma non è bello che alcuni suoi parenti siano indagati, e soprattutto che oltre ai 4 vigili urbani vi sia anche il comandante. Il danno provocato è di circa 85.000 euro. Ora voi direte: poco? Beh, insomma, per il comune d'Orto d'Otella magari con quegli 85.000 euro qualche servizio sociale in più riuscivi ad offrirlo. Non penso che siamo a Orta d'Otella, provincia di Caserta, un modello svizzero o svedese di servizi sociali, anche perché il comune di Orta di Atella era già finito alla ribalta della cronaca per gli oltre 14.000 appartamenti abusivi, costruiti in interi quartieri. E li ha sequestrati la procura di Santa Maria Capua Vetere. L'ex sindaco Angelo Brancaccio fu arrestato il 25 marzo scorso per corruzione con l'aggravante mafiosa in relazione agli appalti per la raccolta dei rifiuti. Cosa aspettiamo a commissariare questo comune? Dico, magari il sindaco Mozzillo ci spiegherà che tutto questo è frutto di una pulizia che lui applica anche ai suoi parenti. La Basilicata. Oh, grazie, perché iniziano ad arrivarci anche molte segnalazioni dagli ascoltatori, dicevo. Dunque, la Basilicata, noi non ci credevamo, perché ci ha scritto un ascoltatore, ha detto: ma guardate che la regione Basilicata sta spendendo 800.000 euro per un progetto per combattere l'obesità, che prevede anche una crociera di 5 barche fino a Venezia. Allora, sulla stampa non era presente, se andate a guardare sul sito della provincia di Potenza, in realtà c'è. Allora, il progetto, posso avere una musica, perché qui più che di non track Q avrei bisogno di una cosa un po' melodica, perché il progetto è un progetto interessante e già il titolo è un programma. Noi conoscevamo l'Amaro Lucano, ma il titolo è Sano e Lucano. Quando siete pronti ve lo racconto, perché intanto vi do la cifra, perché il costo totale del progetto ammonta effettivamente a 788.000 euro, di cui tra l'altro 525.000 a carico della provincia di Potenza attraverso l'agenzia in house APOF 2, e 260.000 euro in carico alla provincia di Matera. La Basilicata non naviga nell'oro. 800.000 euro, vediamo come vengono spesi. Percorsi didattici e laboratori, visite a luoghi e strutture di produzione agroalimentare, frantoi, cantine, fattorie. Vabbè, devi spendere dei soldi per portare le classi, gli studenti a vedere i frantoi, le fattorie e le cantine in Basilicata. Non è tutto. Perché? E cito testualmente il documento di presentazione del progetto, virgolette: un percorso formativo da realizzare durante una navigazione velica da un porto nautico della Basilicata, manco fossero i Caraibi, lungo le coste del Tirreno o Adriatico, a scelta, con attracchi in diversi porti, per favorire azioni di gemellaggio con il MIUR ed altre scuole italiane, al fine di promuovere il progetto e di prodotti tipici lucani afferenti alla dieta mediterranea. L'evento è collegato alle iniziative sostenute dalla Basilicata per Expo 2015 a Milano. Ma avete capito qualcosa? Cioè, un percorso formativo da realizzare durante una navigazione velica? Ma che sono, i pirati dei Caraibi? Da un porto nautico a scelta della Basilicata, lungo le coste a scelta del Tirreno dell'Adriatico, con attracchi in diversi porti a scelta, per favorire azioni di gemellaggio con il MIUR, con il Ministero dell'Università e Ricerca. Ma che è gemellaggio con il MIUR? Ma mica è una cittadina in Bielorussia? Ed altre scuole italiane a scelta, al fine di promuovere a scelta il progetto di prodotti tipici lucani a scelta afferenti alla dieta mediterranea. Da quello che so io, sono quasi tutti i prodotti lucani afferenti alla dieta mediterranea. Non mi sembra che vi sia una grande produzione di lardo e burro in Lucania. Comunque, i destinatari del progetto sono quantificati in 2420, di cui 330 genitori. Ma che cavolo servono i genitori? Ma degli alunni, 440 insegnanti delle scuole primarie. Ma che devi spiegare a un insegnante delle scuole primarie in Basilicata che come funzionano i prodotti alimentari della Basilicata, e per farlo organizzi anche una regata, una navigazione velica? 440 insegnanti delle scuole primarie e secondarie, 1650 alunni. La traversata dell'Adriatico non costa 800.000 euro, perché non c'è scritto quanto costa. 800.000 euro è il costo complessivo del progetto. Avverrà comunque in vela su 5 differenti navi, parteciperanno 80 studenti, e l'evento finale, la traversata della dieta mediterranea da Policoro a Venezia. Questo è il titolo, non sto scherzando. La traversata, ma manco l'italiano sanno, la traversata della dieta mediterranea, ma che è la traversata da Policoro a Venezia? È realizzato in collaborazione con i circoli velici della costa ionica, coinvolgerà una rappresentanza di studenti, insegnanti e genitori, di nuovo, aderenti al progetto, ci mancherebbe che presi a caso, con lo scopo di dare visibilità nazionale, e te credo, all'iniziativa di educazione alimentare. Dunque, purtroppo è già partita mercoledì 24 giugno da Policoro, arriverà il 2 luglio, ecco le tappe, finalmente hanno deciso. Policoro, Brindisi, Marina Sveva Montenero di Bisaccia, Ancona, Ravenna, Venezia, la Marina di Sant'Ena. La navigazione di ritorno partirà il 5 luglio e terminerà il 13 luglio, percorrendo le seguenti tappe: Venezia, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Vieste, Otranto ed arrivo a Policoro. Ora io vorrei capire, è una punizione per questi 80 studenti? Ma soprattutto, perché cavolo dobbiamo pagare noi questa iniziativa? Se è un'iniziativa privata, che se la paghino le varie associazioni veliche, ma che cosa serve? Qual è l'obiettivo del titolo Sano è Lucano? Ma io vorrei caricare, diciamo, i consiglieri della provincia su queste navi, e avrei in mente un altro percorso, diciamo, di tappe un po' diverse, un, diciamo, Policoro Capo Nord, Stretto di Bering, Stretto di Magellano, Vanuatu e poi ritorno. Meteo, pubblicità, poi arriviamo alla seconda e alla prima. Focus Economia. Potevamo non mettere Love Boat dedicata alla provincia della Basilicata. Qualcuno se la ricorda Love Boat? Exciting and new. E con questo vogliamo accompagnare in questo viaggio obiettivamente interessante per il progetto Sano e Lucano gli 80 studenti partiti il 24. Giugno da Policoro, appunto, Brindisi, Marina Sveva, Montenero di Bisaccia, Ancona, Ravenna e Venezia, le tappe andata a ritorno, Venezia, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Vieste, Otranto e arriva Policoro. L'evento finale si chiamerà appunto la traversata della dieta mediterranea da Policoro a Venezia. Non si capisce, ma io, sapete, non ho ancora capito che cosa vanno a fare, a portare i prodotti della Basilicata in nave con 5 velieri. Ripeto, tutto costa, il tutto, compresa l'iniziativa dei percorsi didattici, laboratori, luoghi, strutture di produzione agroalimentare, costa 800, cioè per far visitare le fattorie, i frantoi e le cantine a degli studenti, che poi sono 330 genitori, 440 insegnanti e 1650 alunni, cioè con una media da college svizzero, un insegnante ogni 4 alunni, e portare 80 di questi con tutti gli insegnanti fino a Venezia, 788.375 euro. I contribuenti lucani ringraziano e vedo che sporgono anche delle idee su dove mandare dove mandare questa nave con i consiglieri della Basilicata, regione che non mi sembra che abbia dei conti esattamente in regola. Comunque, vabbè, dai, lasciamo stare Love Boat. Io spero che sia almeno la barca dell'amore, almeno faranno delle cose belle questi studenti su sta barca, così arriveranno, diciamo, a portare una ventata lucana a Venezia. Andiamo al terzo posto e poi rapidamente al secondo e al primo. No, sorrido perché c'è qualcuno che vuole imbarcare i consiglieri della provincia della Basilicata e mettere come comandante Schettino. Adesso, ragazzi, non esageriamo, andiamo avanti. Al terzo posto, Bari. I dipendenti dell'Ateneo, super premiati per 10 anni, buco da 35 milioni. Allora, è il Ministero dell'Economia e Finanze che punta il dito all'Ateneo di Bari. Si sono avute spese record per gli stipendi del personale, corrisposti sotto forma di indennità, premialità e integrativi. Ha fatto una verifica al Ministero delle Economia e Finanze, l'ha avviata nel 2012, ha scoperto un'erogazione indebita di risorse all'Università di Bari dal 2004 al 2013, pari a 20 milioni di euro per la progressione orizzontale dei dipendenti. Io progressione orizzontale oggi qua. E di 15 milioni per la progressione verticale di tecnici amministrativi, elevata professionalità. Meno male che non c'è la progressione diagonale. Il MEF punta il dito contro l'immissione nei ruoli di 285 nuove unità di personale elevata professionalità, ma in assenza di indicazioni contrattuali e di conseguenza, dice il Ministero, si è accumulato un buco di bilancio che nel 2010 era pari a 52 milioni di euro all'Università di Bari. Ovviamente i sindacati sono sul piede di guerra. Peppino Murè della FLC-CGL dice: un dipendente prende tra 1.200 e 1.100 euro, sono stati sospesi i contratti integrativi, non ci stanno a far passare i lavoratori per super premiati e comunque nel frattempo l'amministrazione accademica ha congelato i super premi. Ma la beffa, come ha spiegato Carlo De Matteis, rappresentante degli studenti, è che nel frattempo l'Università di Bari ha chiesto un aumento delle tasse degli studenti nel 2016, 50 euro in più. È un po' come fare qualcosa con qualcosa degli altri, perché tu dai, ti tieni consenso aumentando gli stipendi, hai un buco di 52 milioni di euro e poi fai pagare sulle tasse degli studenti. Si dice fare qualcosa con qualcosa che appartiene a qualcun altro. Allora, al secondo posto in realtà è una buona notizia, perché in Sicilia, nonostante tutto, l'Assemblea regionale siciliana, la mitica ARS, ha tagliato del 20% le indennità dei sindaci e degli amministratori locali e ha ridotto il numero dei consiglieri e di assessori. C'è un piccolo per caveat, ossia questo si applicherà solo con i prossimi consigli comunali, con il rinnovo, va bene, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ci sono 52 comuni siciliani in cui si è votato domenica scorsa, due domeniche fa, scusatemi, e bisognerà aspettare 5 anni, chiaramente, a meno che non li sciolgano per altri motivi. Però in 390 altri comuni siciliani il taglio entrerà in vigore il prossimo anno. Il taglio vorrà dire 2.000 poltrone in meno, 1.300 consiglieri comunali in meno sugli attuali 6.200 consiglieri comunali che ha la regione Sicilia, che ha la Sicilia, 500 assessori comunali in meno, 102 consiglieri di circoscrizione in meno a Palermo, Catania e Messina, 48 i voti favorevoli, 18 i contrari. Al voto favorevole del PD si è aggiunto anche quello del Movimento 5 Stelle. Sostanzialmente i tagli dei gettoni, va dato atto che erano fortemente voluti dal governatore Rosario Crocetta. Rinviare la norma sui tagli, va spiegato Crocetta, significa elevare altri 50 milioni di euro ai comuni e ai cittadini. Comunque, bene, anche se arriverà il prossimo anno o fra 5 anni, bene. Lasciate stare Schettino, qualcuno lo vuole come testimonial della pasta allo scoglio, ma dai, stiamo seri. Ultima notizia, e qua sembra un po' di sparare sulla Croce Rossa, però dobbiamo rendere grazie ancora una volta alla mitica coppia Stella Rizzo, perché insomma Il signor Giampaolo Cuccari, cittadino romano, si è piazzato per settimane davanti al computer, ha battuto a tappeto il database di tutti gli appartamenti di proprietà del comune di Roma. Mi rendo conto che in questo momento abbia altri problemi, ma insomma sono 24.500 appartamenti. Ha scoperto, ma come fa un privato cittadino a scoprire queste cose? Il comune di Roma con tutti i dipendenti che hanno non si accorge nulla, forse perché stavano facendo altro alcuni dipendenti. Comunque ha scoperto che 7.000 di queste case, cioè un terzo, sono affittate a 7,75 euro al mese. Sono abitazioni spesso di prestigio, collocate nei posti più esclusivi. Pensate che quelle affittate a più di 1.000 euro, che è un prezzo normale a Roma, 1.000-1.500 nelle zone di prestigio, sono solo 16. 16 su 24.000, lo 0,06%. Le case affittate a meno di 300 euro al mese sono il 95%. Il comune non ha mai aggiornato i canoni e ha scritto una lettera alla procura il signor Cuccari, e di conseguenza dall'ingresso dell'euro ha fatto la conversione lira euro. È un mito il comune di Roma, è un mito. A quel tempo c'era ancora la giunta Alemanno, forse a quel tempo c'era ancora la giunta Veltroni. Adesso devo andare indietro col tempo. Comunque, le denunce le ha fatte Alfio Marchini, che si sta candidando a fare il sindaco di Roma. Appartamenti di 70 metri quadri in via dei Cappellari a Campo dei Fiori, affittati a 222 euro al mese. 122 metri quadri in via Labicana, vicino al Colosseo, 174 euro. Ma l'avessi saputo Scaiola, non finiva mica in tutti questi casini. Il monolocale in piazza Navona a 22 euro al mese. Il monolocale in piazza Navona. La sede del PD in via dei Giubbonari, dietro il Ministero della Giustizia, a 200 euro al mese. E il PD ringrazia. Per non dire alcuni sbalorditivi affitti commerciali, un bar in via dei Campi Sportivi, vicino a Villa Glori, paga 26 euro al mese di affitto, 86 centesimi al giorno, cioè un caffè e lui ha risolto. Il ristorante in via Appia Antica, che è noto, l'Appia Antica è una zona di degrado urbano, beh, paga d'affitto 258 euro al mese. E questo solo degli immobili di cui si sa qualcosa, perché su 42.000 immobili non si sa nulla. Cioè di 17.000 non si sa nulla, di 24.000 abbiamo scoperto questo. In questo modo il comune di Roma riesce a perdere circa 100 milioni di euro al mese, guadagna appena 27 milioni nel 2013, con una media di affitto di appartamento di 52 euro al mese. Gestisce tutto la società privata Romeo Gestioni. O pensate che la Romeo Gestioni, per gestire in questo modo gli appartamenti, sapete quanto prende? Prende 9 milioni di euro all'anno per gestire in questo modo gli appartamenti di proprietà del comune di Roma. Poi c'è anche il Dipartimento del Patrimonio. Ignazio Marino nel settembre del 2014 ha detto di voler avviare le attività propedeutiche per adeguare i canoni, ma lasci stare le attività propedeutiche, adegui sti canoni, tutto è rimasto uguale. Però il comune di Roma, che è un mito, quando deve affittare lui degli immobili perché gli mancano gli spazi, li paga a prezzo carissimo ai vari immobiliaristi di cui abbiamo letto sui giornali. Pensate che ha preso in affitto 4.800 appartamenti nelle aree periferiche e li paga 21 milioni di euro, cioè li paga 364 euro, 7 volte in più di quanto incassi dai suoi. Ma non faceva prima a metterseli nei suoi e la smettevamo? O c'è qualche interesse dietro che ci sfugge? Poi c'è l'emergenza abitativa, altri 42 milioni. Insomma, ci sono alcuni immobili che il comune affitta e li paga 2.700 euro al mese. Bravi, un applauso, anche se è come sparare sulla Croce Rossa. Bravo al comune di Roma che affitta 55 e paga 2.700. Un genio della finanza. Va bene, meteo, anzi scusatemi, traffico e pubblicità. Focus Economia. Allora, oggi, come spiegavo, purtroppo la giornata è tragica. È il programma terminerà alle 18 perché abbiamo uno speciale dedicato ai tre attentati di oggi. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento Domenico Sorrenti, presidente della cooperativa Birrificio Messina. Buonasera. Buonasera. Le chiedo la pazienza di riaverla ospite la settimana prossima, perché ci interessa moltissimo la vostra iniziativa. Ne abbiamo sempre, quando raccontiamo gli sprechi, la top 5 degli sprechi della settimana. Abbiamo sempre, per dare un po' di entusiasmo e anche di fiducia, un imprenditore o un'iniziativa imprenditoriale che ha sfidato la crisi. Voi siete un'iniziativa bellissima, anche perché avete rilanciato la produzione di birra attraverso una cooperativa di 15 operai. Sorrenti, se lei è d'accordo, ci risentiamo venerdì, così le dedico più spazio, perché la voglio raccontare bene. Va bene. Le auguro buon fine settimana, intanto in bocca al lupo a lei e a tutti i 15 operai che si sono rimboccati le maniche e hanno messo assieme la cooperativa per salvare l'ex birrificio Messina. Grazie Sorrenti per la comprensione. Adesso un aggiornamento di borsa, visto che ci avviamo alla chiusura del programma. Più 0,70% Milano, più 0,35% Parigi, più 0,17% Francoforte, meno 0,80% Londra. L'America più 0,50%. Vedo che continuate a scrivere sulla crociera della Basilicata. Sì, potrebbe rientrare nella top 5 della top 5 questa, però. Allora, Unipolsai più 3,35%, A2A più 3,30%, Enel più 2,80%, Fiat più 1,80%, Monte dei Paschi più 1,60%, come Buzzi Unicem l'1,5% la guadagna Tozze e anche Steam Microelectronics l'1,20%, Azimut chi perde oggi Saipem meno 1,60%, Finmeccanica meno 0,50%. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Hai 2 minuti per raccontarmi la giornata. Diciamo, le borse europee hanno scommesso sull'accordo greco, quindi hanno chiuso addirittura sui massimi, soprattutto anche sostenute nel pomeriggio da Wall Street e dal buon dato sulla fiducia dei consumatori americani. Chi ha sofferto di più invece è stato l'euro, che nei confronti del dollaro è tornato ai minimi da 3 settimane, sotto a 1,12 dollari. In generale una giornata positiva per diversi settori. Ha sofferto però il settore del petrolifero, tant'è che Saipem è stata la peggiore per la correzione del petrolio sotto i 60 dollari al barile. Molto bene Unipolsai, grazie al fatto che da lunedì non saranno più trattate i titoli risparmio, ci sarà una struttura azionaria più semplice, quindi con più appeal per gli investitori. Bene alcune utility, a cominciare da A2A, per i quali un bel rimbalzo più 3,2% e Enel più 2,8%, in recupero anche Fiat dopo qualche giorno di debolezza è tornata sotto i 14 euro, in generale bene il settore bancario. Grazie anche per la capacità di sintesi. Su A2A tu già ricordavi la notizia che ha a che fare con Zaleski, la quota che era pari al 2%. Devo dare ancora i migliori e i peggiori. EMS più 8%, primi sui motori più 7,40%, Bormi Italia più 6,55%, scusatemi, non conosco il titolo. Ecosantec più 4,70%, fronte opposto Hyriel meno 15%, Metorios Capital meno 5%, Modelleria Brambilla meno 3,90%. L'augurio di un buon fine settimana a te Andrea e colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma anche questa settimana. E l'augurio a voi in ascolto di passare un buon fine settimana, soprattutto a partire da chi dovrà lavorare. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.